L'effetto giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, quasi 8.000 contagi e 170 vittime. Pronto il volo per il rientro degli italiani. Resteranno in quarantena per 14 giorni. Bloccata a Civitavecchia una nave da crociera per un sospetto caso a bordo. Istat, calo degli occupati a dicembre. Il numero dei lavoratori precari segna un record a quota 3 milioni. Ultime ore della Gran Bretagna in Europa. Dopo il voto dell'Europarlamento per la Brexit, ecco cosa devono sapere gli italiani a Londra. IVA e detrazioni nel cantiere della riforma fiscale del governo, così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri in diretta dal Telefisco del Sole 24 Ore. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione. Ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Cominciamo dai titoli principali e poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Quasi 8.000 i contagi, 170 le vittime per il coronavirus. È pronto in Cina intanto il volo per far rientrare gli italiani che si trovano lì e che poi però resteranno in quarantena per circa 2 settimane, a quanto si è appreso. Intanto è bloccata a Civitavecchia una nave da crociera per un sospetto caso a bordo. A parlare oggi è stato anche il ministro della Salute Roberto Speranza. Partiamo proprio dall'Italia. Per le misure messe in campo, il nuovo coronavirus, pur essendo classificato per ora come di classe B, al pari di SARS, AIDS e polio, viene gestito come se fosse un virus di classe A, ovvero la stessa del colera e della peste. A ribadirlo è stato oggi il ministro della Salute Roberto Speranza, durante l'informativa alla Camera sul coronavirus, che si è appellato all'Unità Nazionale. Sono convinto che l'attuale situazione potrà essere gestita al meglio attraverso una piena e attiva collaborazione. I rimpatri sono previsti nell'arco delle prossime 72 ore e avverranno a bordo di un aereo civile con personale del Ministero della Difesa. I controlli saranno fatti prima di partire, una volta a bordo e al rientro in Italia. A spiegarlo è il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri. Gli italiani che rientreranno sono circa una quarantina, mentre circa 10 hanno deciso per ora di restare a Wuhan. Al loro arrivo verranno accolti con una quarantena, la cui durata sarà di 14 giorni. Situazione sotto controllo sulla nave Costa Smeralda Civitavecchia, dove solo la donna della coppia segnalata come casi sospetti di coronavirus ha la febbre. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Cina, intanto, come dicevamo, continua a crescere il numero dei contagi. Oltre 7.700 casi di contagio, di cui quasi 1.400 gravi e 170 morti, con l'aumento giornaliero delle vittime che tocca il picco a 38 unità e l'ultimo bilancio della Commissione Sanitaria Cinese sull'epidemia in Cina di coronavirus, che finora mostra un tasso di letalità al 2% contro l'8-10 della SARS. Più di 1.000 i contagi solo ieri nella provincia dell'Hubei, epicentro dell'infezione, in rallentamento rispetto ai giorni scorsi. Tibet, Filippine e India confermano il primo caso e la Russia sospende temporaneamente il rilascio dei visti elettronici ai cittadini cinesi. Intanto le borse perdono terreno sui timori legati all'impatto sull'economia. Taiwan cede il 5%, Hong Kong oltre il 2%, male anche l'Europa, e le aziende chiudono negozi e stabilimenti in Cina come IKEA, Starbucks e Toyota, mentre le compagnie aeree, tra cui British Airways e Lufthansa, sospendono i voli. Sempre a causa dell'epidemia, la Federcalcio cinese ha deciso di rinviare tutte le partite in programma nel 2020. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora la politica. Cominciamo con il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che oggi ha detto il calo record dello spread di questi giorni ci conforta e consente di liberare risorse. Questo in vista del cantiere per le riforme che il governo intende aprire oggi, vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Mettere in campo una stagione di cambiamento, a chiederlo è il segretario del PD Zingaretti a poche ore dall'avvio del confronto sulla verifica di governo. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il premier Conte vedrà i capi delegazione dei partiti di maggioranza per fare il punto sulle priorità con cui rilanciare l'azione dell'esecutivo. Il presidente del Consiglio, che chiede più gioco di squadra, intende aprire tavoli tematici e definire un cronoprogramma per arrivare alla scadenza del 2023. Scuola e lotta alla burocrazia dovranno essere i due temi centrali nell'azione di governo, anticipa Zingaretti, che in vista delle prossime regionali punta intanto a verificare se ci siano le condizioni per un'intesa con i 5 Stelle, un'ipotesi che alimenta nuove tensioni e divisioni fra i pentastellati. Il movimento esiste solo se va da solo, non a destra o a sinistra, afferma oggi il reggente grillino Crimi. I 5 Stelle nel frattempo hanno deciso di rinviare, probabilmente ad aprile, i loro stati generali per concentrarsi sulla campagna per il referendum sul taglio dei parlamentari in programma il 29 marzo. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E intanto dal convegno Telefisco in corso alla sede del Sole 24 Ore, il ministro dell'economia Roberto Gualtieri è tornato sulla questione fiscale, novità sull'IVA, ha detto, ma anche sulle detrazioni fiscali saranno al centro del cantiere per la riforma, e noi ne parleremo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno. Brexit dalla mezzanotte di domani, come sapete il divorzio tra Gran Bretagna e Unione Europea sarà ufficiale, si apre in realtà un altro periodo di transizione, 11 mesi, ci saranno le trattative per mettere a punto le ricadute concrete della separazione, novità in vista anche per gli italiani che vivono oltre Manica. L'ambasciatrice britannica a Roma, Jill Morris, al microfono di Alessandro Arona. Per i cittadini italiani e europei che sono già nel Regno Unito o che arriveranno fino alla fine dell'anno, i loro diritti saranno garantiti, protetti dall'accordo di recesso, incluso i diritti di lavoro, diritti di accesso al sistema sanitario, al sistema pensionistico, accesso alle scuole. C'è il programma, il sistema per registrarsi, che si chiama the EU Settled Status Scheme, che è molto facile da usare. Dopo il periodo transitorio ci sarà un nuovo sistema britannico per gestire l'immigrazione, che sarà basato sulle esigenze della nostra economia, un points-based system. Per gli scienziati, per i ricercatori, il Regno Unito rimarrà aperto ai talenti europei, ai talenti globali, ai talenti italiani. Dal 2004 ad oggi aumenta il numero degli italiani che pensano che la Shoah non sia mai avvenuta. Erano solo il 2,7%, oggi sono il 15,6%. Un sondaggio scioccante riportato dal rapporto Italia 2020 delle Eurispes. Tra le altre novità, tra le altre notizie che riguardano, diciamo, gli orientamenti degli italiani, 4 su 10 definiscono il proprio rapporto con gli immigrati normale, mentre il 10% li trova ostili. E ora la cronaca. In Sicilia, a Mazara del Vallo, una donna è stata uccisa dopo essere stata picchiata la notte scorsa nell'abitazione in cui viveva con il marito. L'uomo, che era già stato denunciato, è stato arrestato. Prima è stata picchiata selvaggiamente, poi è stata uccisa. È morta così Rosalia Garofalo, una donna di 52 anni che viveva insieme al marito Vincenzo Frasillo, un disoccupato di 53 anni, nella sua abitazione a Mazara del Vallo. A dare l'allarme alla polizia e ai vicini di casa della coppia che avevano sentito delle urla. Intorno alle 20:30 il marito della Garofalo ha chiamato poi i medici del 118 segnalandone il decesso. La donna è stata trovata riversa sul letto matrimoniale e presentava gravi segni di percosse su tutto il corpo. Gli agenti hanno portato il marito in commissariato e la procura di Marsala ne ha disposto il fermo per omicidio. Ora è in carcere a Trapani. Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato di Mazara del Vallo, Frasillo avrebbe massacrato di botte la moglie per 3 giorni, sino a causarne la morte. Rosalia Garofalo già in passato aveva denunciato il marito per maltrattamenti, ma almeno in 2 casi le aveva ritirate dopo alcuni mesi. I due erano sposati da oltre 30 anni e la violenza di Frasillo si sarebbe scatenata per l'ossessione di essere tradito dalla moglie. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I dati economici: dicembre negativo per il mercato del lavoro. Dopo 2 mesi di crescita, gli occupati sono infatti scesi di 75.000 unità e preoccupa soprattutto l'aumento del numero dei lavoratori precari, che tocca quota 3 milioni. A dicembre scorso il tasso di disoccupazione in Italia è risultato stabile, 9,8%, lo stesso livello già registrato a novembre. Nella rilevazione l'Istat spiega che il numero delle persone in cerca di lavoro ha segnato un lieve aumento su base mensile. Nel dettaglio i disoccupati crescono tra gli uomini e tra gli under 50, a fronte di una diminuzione tra le donne e gli ultra cinquantenni. Tanto per essere più precisi, tra i 25 e i 49 anni si sono persi 79.000 occupati, ed ecco che la contrazione si concentra nelle classi d'età centrali. Sempre a dicembre resta invariato anche il tasso di disoccupazione giovanile, al 28,9%. In tutti questi dati, però, spicca quello relativo ai precari. I dipendenti a termine, a dicembre, aumentano, arrivando a toccare quota 3.123.000, un nuovo massimo storico. Sul fronte di chi invece smette di lavorare, nel 2019 l'INPS ha liquidato oltre 535.000 nuove pensioni, in linea con l'anno precedente, ma ha registrato un aumento piuttosto consistente, il 30% in più quasi, dei trattamenti anticipati, anche grazie all'introduzione della cosiddetta quota 100 e all'aumento di 5 mesi per l'età di vecchiaia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Numeri questi che si traducono in casi reali nelle numerose crisi aziendali. Dopo la conferma di ieri a Napoli dell'addio da parte della Whirlpool, oggi i sindacati hanno annunciato 16 ore di sciopero dei lavoratori del gruppo, e invece si attendono novità anche su un altro fronte, quello dell'ILVA, in vista della scadenza di domani. L'addio di Whirlpool a Napoli, posticipato al 31 ottobre, annunciato ieri al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, fa scattare le proteste dei sindacati. Fiom, Fim e Wilm hanno infatti indetto 16 ore di sciopero a partire da domani in tutti gli stabilimenti del gruppo. Bisogna avere i nervi saldi e ripartire dall'accordo con la multinazionale americana, auspica il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini. La ricerca di un nuovo investitore deve essere il piano B, puntualizza il segretario Fim, Marco Bentivogli. Continuiamo a insistere sulla dell'accordo che è stato fatto e del piano industriale. È chiaro che serve sempre un piano B qualora entro il 31 di ottobre non ci sia una soluzione. Il governo intanto è al lavoro anche sul fronte ex Ilva, con ArcelorMittal decisa a fare un passo indietro. Si lavora per trovare un accordo ed evitare l'addio, ma, avverte il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, va rispettata la scadenza del 31 gennaio. Se non si chiude, ci vediamo in tribunale il 7 febbraio. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. A 5 giorni dall'avvio di Sanremo, Marta Cagnola ha intervistato un altro dei quelli che si annunciano come i protagonisti, Francesco Gabbani, già vincitore con Amen tra i giovani, Occidentali Scarma tra i big, torna quest'anno con Viceversa. Essere o dover essere, il dubbio amletico, contemporaneo come l'uomo del Neolitico. Credo che sia una canzone che rappresenta, credo, una faccia, un mio modo di far musica che è sempre esistito in realtà, ma che probabilmente il contesto del Festival di Sanremo non conosce ancora di Francesco Gabbani. Però questa volta ti sei anche affidato a un compagno di scrittura un po' particolare, eh? Gino Pacifico, sì. Non è un nome da poco. Non è un nome da poco Gino Pacifico, che però ho scoperto anche essere una persona incredibilmente intelligente e sensibile. E tant'è vero che il rapporto non è stato di predominanza da parte sua nel risolvermi la canzone, ma semmai nel sostenermi quasi in un modo psicoterapeutico, quasi una collaborazione di convincimento. Io sono molto orgoglioso ovviamente di andare al festival in questo brano che porta anche la firma di Gino. Eccoci qua, 13 minuti, è tutto per la prima parte di Effetto Giorno. Torniamo tra poco con le novità che arrivano per quanto riguarda le riforme fiscali da Telefisco. Il convegno del Sole 24 Ore è in corso a Milano e quindi tra pochissimo. 349-238-6666 per i vostri sms. C'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno, a tra poco. Effetto Giorno. Coronavirus, quasi 8.000 contagi e 170 vittime. Bloccata a Civitavecchia una nave da crociera per un sospetto caso a bordo. Calo degli occupati a dicembre. Secondo l'Istat, il numero dei lavoratori precari segna un record a quota 3 milioni. Eurispes, sondaggio shock: per il 15% degli italiani la Shoah non è mai esistita. Milano, la giunta accelera nella lotta allo smog. Dal 2023 stop alle caldaie a gasolio. Siamo i primi a farlo in Italia, dice l'assessore all'ambiente a Effetto Giorno. IVA e detrazioni nel cantiere della riforma fiscale del governo. Così il ministro dell'economia Gualtieri in diretta alla Telefisco del Sole 24 Ore. 13 e 16 minuti, cari ascoltatori, nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati. Quelli che avete appena sentito erano i titoli di oggi, tra i quali anche le parole del ministro dell'economia Gualtieri dal Telefisco di Milano, il convegno organizzato dal Sole 24 Ore, in cui il ministro dell'economia ha, come dire, dato alcuni accenni a quelle che potrebbero essere novità fiscali in arrivo. Con noi Anna Marino, ciao Anna, benvenuta. Benvenuti insomma a tutti a questo approfondimento, perché ovviamente è molto importante il tema, certo, fiscale. Abbiamo insomma parecchie cose da dire. Ecco, allora, naturalmente il convegno del Sole 24 Ore, dove ci sono anche le domande degli esperti e le risposte, quindi adesso vedremo, cioè le domande e le risposte degli esperti, vedremo anche quali sono stati, diciamo, i quesiti più richiesti. Possiamo anticipare che si è parlato molto di partite IVA, un tema che è sempre molto, diciamo, importante, anche perché ci sono stati dei cambiamenti con l'ultimo governo. E poi però dicevamo, Anna Marino, il ministro dell'economia Gualtieri, che così ha dato una idea di quelle che potrebbero essere dei punti sui quali il governo interverrà in maniera fiscale. Altri sapevamo già, si è parlato di riforma dell'IRPEF, poi c'è il tema delle pensioni, ma insomma sul fisco cosa ha detto Gualtieri? Certo, la riforma fiscale, come dici tu, è in arrivo ed è tanto attesa, ed è stata in primo piano, è in primo piano oggi a Telefisco, è la 29esima edizione dell'esperto, il convegno dell'esperto risponde, 175 sono le sedi collegate e ci sono centinaia di commercialisti in ascolto in tutta Italia, dalle 9 di stamattina finisce oggi alle 18. Come sempre gli occhi sono puntati appunto sulle novità fiscali per contribuenti e professionisti, per l'ultima legge di bilancio, ma anche per le risposte dell'Agenzia delle Entrate. Il ministro dell'economia, grande attesa, è intervenuto stamattina, Roberto Gualtieri, in apertura confermando gli obiettivi e l'impegno del governo alla semplificazione e razionalizzazione del fisco, e ha dato anche una data. Si punta, ha detto Gualtieri, ad arrivare a un disegno di legge delega per aprile e per poi approvare i decreti delegati entro il 2020. La riforma quindi dovrebbe essere attuata entro quest'anno, e questo è stato l'annuncio, e sentiamo appunto come ha sottolineato come adesso ci siano le condizioni economiche e politiche per farlo. Sentiamo. L'obiettivo naturalmente è quello della riduzione del carico fiscale sul lavoro, su tutte le forme di lavoro, ma naturalmente è un obiettivo ambizioso, la cui diciamo quantificazione è legata anche, come dire, all'ambizione e all'ampiezza della riforma e anche alla definizione di un quadro più consolidato di finanza pubblica, sul quale siamo piuttosto ottimisti. Abbiamo dei risultati molto positivi sulle entrate, abbiamo adesso anche per effetto di note vicende politiche e che hanno dato finalmente una corretta percezione sulla stabilità e la sua prospettiva di legislatura di questo governo, anche un andamento del mercato dei titoli di Stato che in qualche modo potrebbe ridurre ulteriormente una delle grandi sacche di inefficienza, diciamo così, dell'utilizzo della nostra spesa pubblica. Ecco, in quest'ultima affermazione Gualtieri si riferisce allo spread, all'andamento dello spread, e anche oggi il Presidente del Consiglio Conte ha detto il calo, insomma, ci dà risorse da poter investire poi nelle riforme. Qua si parla di riforme fiscali ed è interessante anche che Gualtieri abbia cominciato a dare delle date, dei punti di riferimento per questo 2020. Cos'altro, Anna? Certo, Gualtieri ha anche sul fronte dei conti ricordato che abbiamo amichevolmente dissentito col Fondo Monetario Internazionale su una previsione di deficit al 2,4%. Però sui contenuti del piano di riforma c'è ancora prudenza, perché il principio di fondo, abbiamo detto, è la semplificazione del sistema fiscale. Si è detto appunto nel mirino del Ministero c'è soprattutto quella che il ministro Gualtieri definisce la giungla di tax, expenditures, bonus e detrazioni. È una giungla. Però appunto dopo il taglio del cuneo fiscale che partirà dal 1 luglio del 2020, il ministro Gualtieri appunto ha confermato che il governo proseguirà su questa strada già tracciata dalla legge di bilancio, guardando non solo ai lavoratori dipendenti, quindi all'IRPEF, ma anche ai titolari di partite IVA. E qui appunto, come dicevi tu, c'è stato il quesito più gettonato, quello sulle partite IVA. Molti quesiti, ovviamente anche quelli sugli incentivi alle imprese eccetera, ma quello più atteso era quello sul cambiamento recente del regime forfettario 2020, cioè i nuovi limiti per le partite IVA che sono entrati in vigore dal 1 gennaio. Tanti lavoratori esclusi dalla flat tax al 15% a causa dei nuovi adempimenti, e confermata questa flat tax per ricavi e compensi fino a 65.000 euro, ma con l'introduzione di nuovi requisiti. E qui, con questo, devono fare i conti gli oltre 10.000 titolari di partita IVA che si sono iscritti al regime forfettario nel 2019 mentre avevano un lavoro da dipendente assimilato. Così, infatti, ha risposto uno dei 14 esperti del Sole 24 Ore in fiscalità, intervenuto oggi, Giampaolo Tosoni, alla domanda che cosa devono fare questi, diciamo così, orfani della partita IVA forfettaria. Sentiamo. Ecco, sentiamo bene, perché qui c'è la risposta a tutti gli orfani della partita IVA forfettaria. Stiamo scherzando, naturalmente, no, ma certo, la parola, importante, diciamo, fa sorridere, ma è questo, sentiamo. Molti soggetti sono fuori da questo regime perché magari hanno un reddito di lavoro dipendente o di pensione superiori ai 30.000 euro. Devono fare la fattura con IVA e questo è già un problema perché il committente o il cliente non era abituato a pagare l'IVA a questi contribuenti. Magari loro diranno: guarda, io ti dovevo dare 2.000 euro al mese, adesso mi scorpori l'IVA. In effetti non è così, perché altrimenti l'importo per il forfettario diventano 1.600 o anche meno. Ragione per cui c'è da trattare con il committente di applicare l'IVA sulla fattura. Poi ci devono attrezzare per fare la fatturazione elettronica, quindi devono ovviamente avere il codice identificativo e quindi poi tenere una contabilità, quindi registrare le fatture elettroniche, cercare di raccogliere tutti i costi possibili e immaginabili. Perché? Perché mentre prima se la cavavano col 5 o col 15%, oggi il reddito è quello determinato nei modi ordinari. È chiaro che questi soggetti, per mantenere la partita IVA, devono probabilmente aumentare i guadagni, perché dal forfettario a un regime ordinario, ancorché per cassa, gli oneri tributari aumentano fortemente. E chiudiamo con una battuta, diciamo, con Gualtieri, che si è detto contento per le nomine delle tre agenzie fiscali, e il ministro dell'economia usa una metafora presa a prestito dal neorinominato direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini per definire la filosofia che deve animare l'azione del fisco. Sentiamo. Il modello che funziona di più è quello di un fisco che sa fare il tutor ancora prima che l'autovelox, e che quindi in qualche modo incoraggia e facilita degli adempimenti che in qualche modo hanno sempre un'efficacia maggiore, che poi ovviamente è necessario anche l'autovelox. Ecco qua, insomma, questo era Gualtieri. Anna Marino, grazie per essere stata con noi. Ricordiamo semplicemente che chi fosse interessato, insomma, a fare delle domande, a seguire Telefisco, può farlo naturalmente tramite Radio 24, ma anche come? Ci sono tante modalità, no, per sì, fare anche delle domande, per intervenire. Oggi pomeriggio ci saranno ancora degli altri quesiti nel GR delle 16, in Focus ci saranno approfondimenti nel GR delle 19, e comunque per chi vuole ci sono gli aggiornamenti sul sito del Sole 24 Ore. Benissimo, grazie Anna. Eccoci qua, 13 e 23 minuti, cari ascoltatori, facciamo un cambio di argomento e torniamo a parlare di politica, perché continuano, le leggete sui giornali, nei talk show, se ne parlerà ancora per un po' sicuramente, le analisi dei risultati elettorali, i flussi elettorali, chi ha preso più voti, chi ha preso meno voti. Per quanto riguarda le regionali dell'Emilia-Romagna, oscurato un po' il dato sui singoli candidati dalle discussioni di carattere nazionale, spicca invece il record di preferenze di una candidata di centrosinistra, Elly Schlein, che ha avuto il record di preferenze in Emilia-Romagna, e tra l'altro è finita anche sulla prima pagina di alcuni giornali internazionali per aver in qualche modo sconfitto Salvini in Emilia-Romagna. Può essere lei, Elly Schlein, il nuovo volto della sinistra ecologista e ambientalista? Ce lo siamo chiesti con Daniele Biacchesi. La sinistra, a sinistra del PD, cerca una nuova identità. Dal 4% della lista Tsipras, 1.008.457 voti alle europee 2014, al 3,4% di LeU e 1,1% di Potere al Popolo alle politiche 2018, fino all'1,8% della sinistra alle europee 2019, 469.943 voti. In quasi 7 anni è stato uno stillicidio, in uscita verso il PD, i 5 Stelle oppure nel partito dell'astensione. Ora è alla ricerca di un leader che possa mettere insieme le tante sigle mai unite, sempre divise e lacerate. Sinistra Italiana, articolo 1, rifondazione possibile, Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo e altri ancora. Elly Schlein, ex europarlamentare e ora consigliere regionale in Emilia-Romagna, ci potrebbe provare con le sue oltre 22.000 preferenze ottenute per la sua lista coraggiosa in Emilia-Romagna. Si è conquistata l'attenzione di quotidiani nazionali ed internazionali, dei principali talk show televisivi, mentre si estingue lentamente la vecchia sinistra, figlia del pensiero socialista del Novecento, ne è nata una nuova, giovane ed ecologista. Elly Schlein ha intercettato questa onda verde che attraversa l'Europa, che parla di sviluppo sostenibile e di lotta alle disuguaglianze. Forse da qui può nascere una nuova classe politica meno ancorata al vecchio mondo e più collegata alle grandi sfide del futuro. L'ambientalismo, sentivamo nell'analisi di Daniele Biacchessi, dedicata ad Elly Schlein, e l'ambiente resta sempre un po' al centro di tante preoccupazioni, per esempio per quanto riguarda la qualità dell'aria, perché nell'area del bacino padano, da Torino a Mestre, le polveri sottili sono tornate di nuovo sui livelli di guardia nel mese di gennaio. Per un totale di 24 giorni consecutivi le PM10 sono state sopra la soglia consentita. A Milano si annuncia un nuovo blocco del traffico per questa domenica, ma il capoluogo lombardo non si distingue soltanto per questo blocco, sulla cui utilità si è discusso molto in passato, utilità o scarsa utilità, ma anche per un'altra iniziativa, ed è questa una novità: il bando delle caldaie a gasolio a partire dal 2023. Un annuncio importante, ne ha parlato Cristina Carpinelli con l'assessore all'ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli. Noi stiamo elaborando il piano aria e clima che individua tutte le azioni necessarie. All'interno di questo si è pensata questa misura che vieta le caldaie a gasolio dal 1 ottobre 2023. Un'azione molto importante perché permette di dimezzare le emissioni e anche di dimezzare il costo del riscaldamento. Questa operazione viene fatta sia per il pubblico che per il privato. Quindi il pubblico, noi siamo già attivi da qualche anno in un piano di chiusura di tutte le caldaie pubbliche a gasolio, o meglio quelle di proprietà del comune. Il comune è già intervenuto su una quarantina di edifici di proprie caldaie trasformate prevalentemente a metano e a teleriscaldamento. Abbiamo trasformato tutte le caldaie a gasolio delle case popolari di proprietà del comune. La stessa cosa la chiediamo ai privati. Un'altra domanda invece riguarda la scelta della domenica a piedi, quindi 2 febbraio, domenica a piedi, sì. Traffico chiuso. Sebbene il 2019 abbia avuto 72 giornate di superamento, che sono meno delle 79 dell'anno precedente e meno delle 97 del 2017, però siamo ancora distanti dalle 35 previste. E poi in questi ultimi 30 giorni abbiamo avuto solo 2 giorni in cui la qualità dell'aria è stata sotto i limiti, pur sapendo che le misure essenziali sono quelle strutturali, come appunto le caldaie, come area B. Se è necessario anche un qualcosa di più, quindi anche se la domenica ne riduce poche, però è sempre meglio che non fare nulla e aiuta alle misure strutturali che abbiamo già in corso. 13 e 29 minuti, siamo alla pausa di Effetto Giorno, torniamo tra poco dopo le informazioni dai mercati finanziari. Vi racconteremo l'incredibile storia di un autista dell'autobus di Roma, non vi anticipo altro. 349-238-6666 per i vostri messaggi, tra poco. Effetto Giorno. Coronavirus, quasi 8.000 contagi e 170 vittime, bloccata a Civitavecchia una nave da crociera per un sospetto caso a bordo. Calo degli occupati a dicembre, secondo l'Istat, il numero dei lavoratori precari segna un record a quota 3 milioni. Eurispes, sondaggio shock, per il 15% degli italiani la Shoah non è mai esistita. IVA e detrazioni fiscali nel cantiere della riforma del governo, così il ministro dell'economia Roberto Gualtieri oggi al Telefisco del Sole 24 Ore. Oh. 13 e 35 minuti, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizi. Cari ascoltatori, questi titoli di oggi: 349-238-6666, i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Allora, commenti ci sono per esempio sulla notizia del bando a Milano delle caldaie a gasolio a partire dal 2023. e dovrebbe essere uno dei primi comuni italiani ad annunciare una notizia del genere. Qua c'è un ascoltatore che scrive al 349-238-6666 e è un esempio, come dire, abbastanza luminoso di benaltrismo, no? Perché dice così: ma perché, ci sono ancora le caldaie a gasolio? Sì, ci sono, a Milano ce ne sono per esempio a migliaia. E poi aggiunge: perché non finanziare la riqualificazione degli edifici per eliminare qualsiasi caldaia? Caro Sergio, benissimo, però come dire, cioè, sicuramente costa un po' di più riqualificare tutti gli edifici anziché cambiare le caldaie. Cominciamo a cambiare le caldaie, no? Non va bene? Sul fisco invece, quest'altro ascoltatore dice: scusate, mi fate ridere, che sono decenni che si accavallano aumenti della tassazione sul lavoro, adesso tutti a riempirsi la bocca che è indispensabile occuparsi del cuneo fiscale, ma quando mai? Insomma, questo è il commento sulle notizie che arrivano da Telefisco qui di Milano, con il ministro dell'economia Gualtieri che ha detto, insomma, ha annunciato alcune novità. Caro ascoltatore, è vero che se ne parla da anni, però abbiamo fatto dei passi in avanti, perché vi ricordate qualche anno fa addirittura le Iene fecero una mini inchiesta andando in giro a chiedere alla gente che cos'era il cuneo fiscale, quando, non mi ricordo che anno fosse, in quale elezione, nel 2001 o 2006, Romano Prodi fece la proposta sulla diminuzione del cuneo fiscale, nessuno sapeva che cos'era il cuneo fiscale. Oggi lo sappiamo tutti, quindi qualche passo in avanti lo abbiamo compiuto e dobbiamo ammetterlo. È il momento del punto del vice direttore del Sole. Il punto di Alberto Orioli. È passata una settimana, ma il cigno verde di cui si parlava a Davos come emblema di una crisi inaspettata si è palesato nella forma di coronavirus e sta già dispiegando i suoi effetti nefasti tra chi viene contagiato e naturalmente rischia addirittura la vita, ma anche sull'economia globale interconnessa, che si scopre fragile e impaurita. Si bloccano i voli British e Lufthansa, si ferma Starbucks, si paralizzano Toyota e le grandi case tedesche. Si paralizza anche la città di Wuhan, nodo strategico della manifattura e della logistica cinese. La Cina contribuisce ormai da anni per il 35% alla crescita mondiale ed è quasi il 16% del PIL del pianeta. Oggi è il big spender del mondo. In Italia sono i turisti con lo scontrino medio più alto. Per le materie prime vale il 50% della domanda, ma lo stesso accade per i beni di lusso, per la moda, per il turismo. I cinesi sono 1.300.000.000 di persone, ma hanno ormai una nuova borghesia di oltre 400.000.000 di abitanti. Sono ad altissima capacità di spesa. Non si sa quando il virus sarà da considerare sotto controllo, si sa però che questa crisi brucerà quasi 2 punti del PIL cinese e per l'Italia, fanalino di coda nella crescita europea con un risicato più 0,5%, non è certo una buona notizia. minuti. Allora, sul Messaggero di oggi c'è la notizia della lettera inviata ai presidi delle scuole romane da parte dell'associazione presidi per invitare ad avere, come dire, tolleranza nei confronti dei ritardi degli alunni che arrivano a scuola tardi per via dei mezzi pubblici romani, che sono sempre e normalmente in ritardo. Insomma, cosa nota, si sa, mezzi vecchi, manutenzione scarsa, autisti, per esempio autisti minacciati tante volte. Insomma, l'azienda non brilla per efficienza, azienda dei trasporti romana, però sembrerebbe averla ritrovata incredibilmente in un caso che però ha tutta l'aria di essere un'ingiustizia nei confronti di un dipendente. È con noi Federico Maruca, buongiorno. Buongiorno a voi. Lui è un autista di un'azienda, l'Autoservizi Troiani, che lavora nell'ambito del consorzio TPL, quello che opera a Roma e nel Lazio. E la notizia è questa: il 10 gennaio scorso Federico ha ricevuto una lettera di licenziamento che gli è stato annunciato per giusta causa, in quanto è considerato inabile al lavoro dopo alcune visite specialistiche. Il punto è che, Federico, lei ce lo racconti, perché è inabile dal lavoro? Perché ha un danno all'occhio che le è accaduto mentre era in servizio, per un fatto anche abbastanza grave, in cui lei è stato vittima. Esattamente, sì. Diciamo che la questione è nata tutta il 1 ottobre del 2017, giorno in cui io ho subito questa aggressione mentre conducevo in mezzo pubblico, esattamente sulla linea 055 qui su Rocca Cencia. E niente, ho avuto questa aggressione da parte di questo utente ubriaco che non stava creando fastidio e agitazione all'interno del mezzo, nonché anche pericoloso in quanto armeggiava una bottiglia di birra, quella grande, da 66. Quindi voglio dire, lei si è sentito in dovere di intervenire in qualche modo, no? Ma non è che mi sono sentito in parte, cioè, era coinvolto necessariamente dovere, essendo l'autista, ma, dell'autobus. Anche perché responsabile del mezzo e anche dei passeggeri è il conducente. E però ne ha fatto le spese, perché come è finito questo episodio? È finito che io ho cercato in tutti i modi di evitare una colluttazione. Sì. Quindi cercare di farlo ragionare, di dirgli metti seduto, stai buono, cioè cercare di trovare una tranquillità, dato che comunque lui non poteva ragionare in quel momento, ma invece si è scagliato contro di me, cercando di colpirmi più volte con la bottiglia, e fino a quando non è riuscito a colpirmi sul lato sinistro del volto, quindi proprio vicino all'altezza tra l'orecchio e l'occhio sinistro. E niente, da lì poi è successo tutto il calvario, perché... Vabbè, certo, lei poi sarà finito in ospedale, è stato curato. Lì è stato sotto INAIL, sotto infortunio per 2 anni. Nel corso di questi 2 anni sono stato sottoposto a 2 interventi chirurgici. Forse ne dovrò fare anche un terzo, perché si sta cercando di vedere un attimo com'è la situazione, ma comunque non sono più idoneo alla guida a causa di questo infortunio. Ecco, ora uno si può immaginare che se una persona in servizio le accade quello che è accaduto a lei, all'interno di un'azienda non si viene licenziati perché a questo punto non si è più inabili a guidare, ma gli si viene dato un posto in ufficio, per esempio, o si cerca comunque una soluzione, perché sembra veramente incredibile, lunare. Insomma, lei ha subito un'aggressione mentre era in servizio, nelle sue funzioni, ha perso un occhio e adesso ha perso anche il lavoro. È incredibile. Senta, siccome sappiamo che c'è una vicenda legale, ovviamente, cosa dice il suo legale? E premetto anche che noi abbiamo chiamato l'azienda dei trasporti per dire la sua, ma non ha voluto intervenire. Cosa dice il suo legale in merito a questa lettera di licenziamento che lei ha ricevuto? Beh, adesso il mio legale, i miei legali, diciamo, si stanno occupando di questa cosa qui, e ovviamente anche loro sono rimasti, diciamo, basiti anche da questa situazione, perché è al di fuori di ogni logica comune, perché comunque, come hai detto bene tu prima, se io mi faccio male sul posto di lavoro e a causa di quell'infortunio io non sono più idoneo per quella mansione, che fai? Allora cacciamo via la gente perché non è più capace a guidare? Non credo voglio proprio. Dire, fosse capitato non dovrebbe per essere. Una mia, per una mia, come dire, insolvenza, una mia... qualcosa di cui io non ho osservato, allora alzo le mani e dico hanno ragione, è stata colpa mia. Ma, cioè, qua si vuole arrivare al punto che ormai tanto noi autisti, e parlo in generale, non soltanto qua a Roma, in generale nel nostro paese, tanto veniamo considerati come matricole, noi siamo dei numeri alla fine per le aziende. E tra l'altro, Federico, aggiungo a quello che sta dicendo lei, che ci sono degli ascoltatori che scrivono, esprimono solidarietà, e uno addirittura dice ma non avrebbe dovuto ricevere un risarcimento, visto che comunque ha avuto un danno, un infortunio sul lavoro, di questo si è trattato. Ora poi, ripeto, non conoscendo tutti gli aspetti di questa vicenda, gli aspetti anche legali, non voglio, diciamo, saltare alle conclusioni, però insomma, qui le conclusioni mi sembrano abbastanza evidenti. Lei ha perso il posto di lavoro, non solo non ha avuto un risarcimento, ma perde il posto di lavoro. Qualcuno le ha mai dato qualcosa per questo incidente che è accaduto? No, veramente io adesso ho già avuto dall'INAIL il punteggio di invalidità permanente, quindi diciamo io faccio parte di quella categoria che va in rendita a vita, quindi io, diciamo, percepirò una pensione di invalidità che non so neanche quanto è quantificata, perché ripeto, devo aspettare ancora che mi mandano il definitivo con tutte quante tutto l'iter. Comunque, Federico Maruca, grazie per essere stato con noi. Racconteremo anche l'esito di questa storia, di questa vicenda. Ha ottenuto un punteggio di invalidità dall'INAIL, non ha ancora ottenuto una lira, sono passati 2 anni, per il momento ha ottenuto una lettera di licenziamento. È una notizia molto amara questa qua. Allora, proviamo a distrarci. Allora, Federer ha perso, Carlo Genta. Federer ha perso e quindi set contro Djokovic. Però contro Djokovic, quindi sì. Tifosi Djokovic saranno contenti, almeno sì, loro. Sì, che Djokovic che era onestamente favorito, sì, anche per superficie. Djokovic, certo, re d'Australia in diverse occasioni. C'ha i muscoli e i legamenti un pochino più reattivi di quelli di Federer. Sì, che però è ancora lì a giocarsi la semifinale, certo, contro Djokovic, per l'appunto. Io invece faccio una domanda a te e agli ascoltatori, sì, 349-238-6666, soprattutto quelli romanisti. Ma come la vedete, la vedi tu, Alessio, questa diaspora dei capitani? Se sei romano, romanista, capitano della Roma, con improbabilità vai via. Non sono romano, per cui non sei romano. I romani sicuramente vivono male tutta questa diaspora dei capitani. Noi ci accontenteremo di vedere una Roma bella competitiva. Ti riferisci a De Rossi? De Rossi e a Florenzi, che è andato via. E De Rossi è andato truccato per la partita. Parleremo anche di questo. De Rossi è andato truccato. E Florenzi è partito per Valencia. E che dobbiamo fare? Se sei romano, romanista e capitano, adesso c'è Dzeko, che però non è romano, bosniaco, quindi magari sarà un po' più lungo. Io sono rimasto molto sorpreso. Non seguo tantissimo le vicende da vicinissimo, però da tifoso sono rimasto. Dopo Totti, di sale, dopo De Rossi, adesso Florenzi. Comunque, di questo parliamo. Parliamo anche dell'Inter, torniamo a parlare di Valentino Rossi, pure lui prepensionato dalla Yamaha. Tra l'altro oggi viene presentato a casa sua, al ranch, il suo team, e avremo degli ospiti da lì. Grazie Carlo, appuntamento con te a tutti i convocati dopo il GR delle 14. Grazie, adesso è il momento di Giulia Crivelli.